Vedo bianco e nero, non quello che in mezzo, ed è questo che mi è stato insegnato. Programma reset, sette cervello. Lo abbraccio i miei soci che voglio compagnia. Per questo viaggio per la terra di mezzo, nel mezzo del niente, dove niente è un prezzo, che vado di nuovo aspettando il messia. Sia quel che sia, perdo la volontà, perché sta società mi tarpa le ali, che voglio spiegare per poter spiegare e piegare i limiti dell'umanità. E niente, mi perdo all'incrocio del tempo, è passato e presente, lasciano gente al vento. E si incrociano le vite, qualcuna si sfiora, e a questa fortuna poi passa la storia. Di rado mi trovo a puntare una luce, la fisso con gli occhi dove mi conduce, lo sa solo lei, traghetti i miei sogni, non trovano incroci, stai fermo li spegni. Forse è per questo che nei testi mi intreccio, vorrei trarne profitto, anche se non mi impegno, non mi fermo mai ai bivi sfrecci, ogni croce via, per me è un brutto segno. Rimango stupito dei vari complessi che crea una X dentro un'espressione, ma è solo un incrocio, la mia riflessione è un solo l'incontro di due angoli retti. Continuate a credere che possa tornare, inferno, paradiso, il suo croce via, questo è ciò che gli direi. Se lo dovessi incontrare, riprenditi la croce e vai via. Siamo tutti nello stesso mare, a remare da un lato si finisce in fondo. Ed è per questo che siamo gli uomo, che croce via si fanno a pensare. Siamo tutti